Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, anche a Coach Dan Peterson. Ciao Coach. Ciao Carlone, come andiamo? Benissimo, mi sono trovato compagnia femminile oggi, caro coach. Voce e volto del basket di Sky, Paola Ellisse, che è qui con me. Ciao Paola, grazie. Ciao Carlo, buongiorno a tutti, ciao coach. Ciao Paola, l'abbraccio. Almeno cerco di farmi coraggio in vista della... Tutti insieme cerchiamo di farci coraggio in vista della partita di Siena questa sera, che Siena che mi sembra abbia un po' la faccia di chi sale sul patibolo del Pireo, caro coach. Well, innanzitutto, cioè, prima dobbiamo guardare Panathinaikos, che nella stessa identica situazione, sotto 2-1, giocando gara 4 in trasferta ieri sera a Tel Aviv, ha vinto, quindi è possibile. La differenza fra Panathinaikos e Siena è che Panathinaikos in grande forma atletica adesso, mentre Siena gli mancano veramente i riflessi, proprio la punta, la risposta, come dire, meglio, la quickness, la reaction time, la reattività, mancano queste cose e sono stati sovrastati nei rimbalzi offensivi presi da Olympiacos. In gara 3, per esempio, il conteggio ufficiale era 18, ma sappiamo benissimo che era piuttosto 25, se non 26 o 27, quindi non puoi continuare a cedere questi secondi tiri. Se Siena questa sera, nonostante l'assenza di Bootsy Thornton, riesce a trovare energia, è l'unica parola che viene applicata qui, energia per tagliare fuori uomo e poi saltare e prendere il rimbalzo difensivo, hanno le loro possibilità, perché è sempre una buona squadra con un grande allenatore, quindi non si discute questo qui, ma la che ho detto di sei, loro devono trovare energia, punto, sì. E basta. Sì, è anche vero, Paola, che insomma Coach ha citato nei numeri, è vero, la serie tra Maccabi e Panathinaikos ora sul 2-2, perché il Panathinaikos ha vinto ieri a Tel Aviv e ora la serie va in gara 5 ad Atene. È anche vero che insomma hanno due facce diverse, cioè Panathinaikos è sempre stato attaccato al Maccabi, ha sempre lottato, ha sempre rischiato di vincere. Siena ha perso male due partite e ne ha vinta non benissimo una. Sì, in effetti il coach ha usato la parola giusta dicendo che manca energia ed è proprio la sensazione che si è avuta vedendo le partite di questa serie, stanchezza, soprattutto il fatto che arrivava un momento in cui sembrava come si spegnesse la luce. È successo nel quarto periodo di gara 1, sì, quando poi è arrivata la sconfitta per il Montepaschi, in fondo anche in gara 2, come dicevi tu, c'è stato un momento in cui c'è stato un blackout e sono cose abbastanza anomale per il Montepaschi, che è una squadra che invece normalmente ha proprio la propria forza nel riuscire a giocare 40 minuti sempre con la stessa energia. Effettivamente questo fa temere, perché la sensazione è che siano davvero molto stanchi, lo ha detto anche Pianigiani, sì, gli infortuni, i problemi, non è riuscito ad allenarsi con la squadra completa, insomma, esatto, i motivi sono tanti, però davvero c'è la sensazione di tanta stanchezza. Sì, e coach, infatti Pianigiani dice che parla dell'impossibilità di essere la Siena vera nel lavoro quotidiano, e oggi l'intervista sulla Gazzetta dello Sport chiude dicendo: se continuiamo e proviamo a riportare la serie a Siena per gara 5, sapendo che se non ce la facessimo non dobbiamo abbatterci, perché la squadra oggi non è quella che speravamo fosse nei momenti decisivi. Questo dice Pianigiani, e io aggiungo anche che Siena arriva comunque sempre nelle ultime stagioni agli appuntamenti determinanti in Eurolega in cattive condizioni per vari motivi. Ah, non lo so, ma ti dico una cosa però su questo. Hai fatto una bella domanda, onestamente non ho la risposta, però dico questo. Diciamo che in queste settimane qui, questi giorni qui, con l'Olympiacos, Siena fosse in grande forma, passasse il turno e poi la settimana dopo, fra questo qui, la qualificazione e il Final Four, un crollo in campionato. Non so, perdono tre partite in fila in campionato e la gente non ci sarebbe il dramma che c'è adesso. È venuto nel momento sbagliato il logico crollo, o diciamo la logica flessione fisiologica, come si dice in Italia. Questi qui sono sotto tiro per 9 mesi e mezzo o 10 mesi addirittura, questi giocatori. È logico che nello spazio di 10 mesi un paio di cali fisiologici la squadra avrà. L'hanno avuto questo nel momento peggiore possibile, proprio la quarta finale di Eurolega, e quindi fossero in grande condizione adesso, passano attorno e poi nessuno dice niente, hanno perso 3 in campionato, sì, sì, tanto sì, vincono 3, sì. Però è venuto nel momento, timing non giusto per loro. Il timing però è una costante, Paola, per quanto riguarda le ultime stagioni di Siena. Mi viene in mente un giocatore, Lavrinovic, non è mai arrivato ai momenti clou dell'Eurolega in buone condizioni nelle ultime tre stagioni. Sì, effettivamente è vero, perché vabbè, poi lui ha questo problema più o meno perenne con questa povera schiena. Giustamente il coach durante la telecronaca l'altra sera diceva non riesce a piegarsi, sì. Ed è evidente proprio che fa moltissima fatica e cerca in qualche modo di stare in campo, ma soffre enormemente. Effettivamente è vero, è una cosa che si ripete, nonostante tra l'altro l'andamento quest'anno di Siena in campionato sia stato diverso, cioè comunque qualche partita l'ha anche lasciata per strada, quindi magari è stata un po' meno dominante e c'è stata forse un po' meno pressione in quel senso. Però forse anche il ritmo, il fatto che in questo periodo tra All-Star Game, partite rimandate, hanno avuto un ritmo diverso, no? Meno scandito nel giocare, forse anche quello può aver significato qualcosa. Può essere, coach. Well, yeah. E poi ovviamente adesso una squadra gioca Eurolega con più partite in Eurolega ogni anno, il campionato Eurolega è come la regular season in Serie A, cioè non le partite, siamo molto oltre 20-25 partite adesso, è una cosa. Il mio ultimo anno, a parte quest'anno passato, nell'86-87, noi abbiamo fatto un totale, andando in fine Coppa Italia, in fine la cosa del Coppa del Campione, in fine dei playoff, 58 partite. Adesso giocano 75, regolarmente, minimo 70. Okay? Uno dice, beh, cosa sono 12 partite più? Cosa sono? Sono veramente le gambe, i polmoni, le articolazioni e tutto. Quindi sono tutti soffrono ormai. Le squadre come Siena, come Milano, come Cantù, o hai 12 giocatori intercambiabili per affrontare tutti gli impegni, o non puoi pensare a sopravvivere. Anche nell'NBA adesso, tu hai visto che Woodson ha preso i Knickerbockers, nessuno gioca più di 26 minuti, più o meno, nessuno gioca più della metà della partita, perché c'è una partita sopra l'altra e devono risparmiare la gente per la partita successiva. Ormai è così in Europa. Sicuro. Paola, sei pronta al tweet del coach? Eh? Pronta. Sentiamo. Vorrei essere sindaco dittatore di Milano. Prima legge, ogni nuovo palazzo deve essere in stile Liberty. Là dove c'era l'erba ora c'è una città. Quindi coach, gli altri li tiriamo giù tutti? Ma io sono tifoso dello stile Liberty e non tifoso dell'architettura moderna che vedo a Milano, che per me sono un pugno nell'occhio. Perché sei nostalgico della vecchia sede in cui andavi. Che gioiellino. Quindi, assolutamente. Io sono tifoso di queste cose. Io penso che tutti noi americani siamo innamorati proprio di queste cose in Europa e soprattutto in Italia, e in questo caso mio. Ti rubo un secondo ancora. Come no? Tu sai, Paolo sa benissimo che la figlia di Pietro Colnago studia a Siena e lavora per Montepaschi. Allora c'era Pietro, moglie e figlia lì alla partita recentemente, e Pianigiani, giusto, scherzando con me, mi ha preso in giro e dice: ah sì, coach, la figlia di Pietro ha voluto venire a Siena, le cose belle. E io ho detto: ehi, Pianigiani, se io ti do un appartamento in quartiere Brera a Milano, voglio vedere se tu torni a Siena. E lui dice: mi dai un appartamento? E ho detto: no, Pianigiani. Ho detto: se ti do, ho detto: sei, ok, perché nominarmi un quartiere in Italia più bello di quartiere Brera, ok? Quindi ci sono meraviglie, e quando vedo le cose che stonano con questo, mi dispiace molto. Sì, che poi tu con Pianigiani l'anno scorso hai anche litigato, quindi. Ma questo è stato tutto. Mi daranno l'Oscar, sono meglio di De Niro io in queste cose. Okay? Grazie, coach. Ciao, Fili, ciao Paolo. Ciao, coach. Ciao, coach Dan Peterson. Palla spicchi. Andrea D'Ancona già in linea, 800 24 00 24, sempre come Paolo Ellis. Ci sono anche vari sms, 349 238 6666. Davide da Torino che domanda se Siena è eliminata, è definitivamente finito un ciclo, e la domanda secondo me è pertinente, tra poco risponderemo. C'è chi invece, tifoso canturino, non vede l'ora che Siena arrivi a Cantù per cantargli dov'è la Coppa dei Campioni, ma questo fa parte del gioco, come sa benissimo l'ascoltatore che scrive. Andrea da Ancona, buonasera, buongiorno. Buongiorno a tutti. Volevo sottoporre questa domanda. Come giudicate l'impiego o meglio il non impiego quasi di Aradori nella Montepaschi. Quando prima di essere acquistato dalla Montepaschi è stato il miglior marcatore italiano nel campionato di Serie A e secondo me in maniera inspiegabile Pianigiani non lo sta utilizzando nelle rotazioni, gli preferisce Thornton o Rakočević. E secondo me un giocatore così giovane, così talentuoso in Italia non so quanti se ne possono trovare. Sì, voglio però partire da una per me. Beh, a parte Thornton che si è rotto una mano, quindi io credo che questa sera Aradori avrà dei minuti in questa partita così importante. Questo è vero, quanto dice l'ascoltatore è vero, Paola, non viene utilizzato con continuità quantomeno da Pianigiani, però mi sembra un giocatore maturato. Adesso per andare dove non lo so, perché giocare questo ruolo così tattico all'età che ha forse non è esattamente il suo destino. Beh, sta crescendo senz'altro, sai, lì è un discorso anche credo di scelte del giocatore, nel senso che l'ascoltatore ha ragione nel ricordare che lui è stato il miglior realizzatore italiano, vestiva un'altra maglia, giocava in una squadra in cui giustamente c'era molto spazio, c'erano molti palloni a sua disposizione. Nel momento in cui scegli di andare magari a vincere, sai che però inevitabilmente questi spazi si ridurranno, inevitabilmente questi possessi si ridurranno, inevitabilmente ti verranno chieste anche cose che magari altrove non ti venivano chieste, come la difesa o comunque altre cose. Poi penso, io non sono Pianigiani chiaramente, però ogni allenatore, l'ha sempre detto anche Dan Peterson, deve fare delle scelte pur avendo, come diceva prima, 12 giocatori a disposizione, però comunque non può usare una rotazione a 12. Sì. E quindi evidentemente la scelta di Pianigiani è caduta su quello che tra i suoi giocatori ha meno esperienza a livello europeo. Sì, qui arriviamo alla domanda di cui sopra, cioè siamo vicini all'epilogo del ciclo di Siena? Io credo di sì, credo che insomma, innanzitutto se questa squadra comunque dovesse uscire stasera dall'Eurolega, a quel punto arriverebbe col sangue agli occhi al finale di campionato e non credo potrebbe essercene per alcuno, no? In linea di massima. Plausibile. Però credo sia l'ultimo ballo di questa squadra, così com'è. Sì, sì, immagino di sì, anche perché insomma già si sa che non verrà rinnovato il contratto di Storuk, perlomeno sì. È quanto si legge, quanto si dice che cambierà per esempio già soltanto quello e non è un cambiamento da poco. Certo. E poi comunque ci sono diversi giocatori che hanno un'età non più verdissima, senz'altro c'è una ricostruzione da fare. Sui tempi chiaramente nessuno li può conoscere, però tutti i cicli finiscono e quindi inevitabilmente anche questo prima o poi deve finire, anzi è già stato direi piuttosto lungo tutto sommato. Sì. Sono curioso di capire se si ripartirà da Pianigiani. Questa è una bella domanda, non lo so onestamente, perché lui è stato il grande protagonista di questo ciclo, il grande traghettatore di questo ciclo, non so se anche lui magari abbia voglia di fare esperienze di tipo diverso, magari potrebbe anche avere in mente di fare qualcos'altro, sì. Perché comunque anche un allenatore credo che abbia voglia di crescere, di cambiare, di imparare cose nuove. Di fare cose diverse nella vita. 800 24 00 24, il numero verde. Dicevo, se Siena esce dall'Eurolega comunque si butta con sangue agli occhi sul campionato e non vedo sinceramente molto altro in giro. Due presunte finaliste con tante difficoltà, chi più chi meno, sono Cantù e Milano, con insomma Cantù che sta pagando adesso forse lo sforzo meraviglioso prodotto in Eurolega, e Milano che manda sempre segnali molto contrastanti, molto contraddittori. Ho visto la partita con Cremona e onestamente non mi sembrava, adesso che siamo comunque a marzo, una squadra in grado di nemmeno fare solletico a Siena. È talmente discontinua che si fa fatica a pensare quale tipo di Olimpia Milano possa arrivare ai playoff ed eventualmente in fondo. Perché in effetti è da quando è iniziato il campionato che si dice sta crescendo, poi perde male una partita come ha persa Cremona, allora c'è lo stop, poi si dice sta ricrescendo, poi ma adesso che è uscita dall'Eurolega lavorerà più sul campionato, insomma mille teorie, poi il campo ci racconta ogni settimana una storia diversa. Cioè, il segnale positivo è che comunque nei confronti diretti, una volta l'ha battuta Siena, ma era un'altra storia, erano altri tempi, e poi comunque ha lottato, ci è andata vicino, sono state partite che hanno generato, come sai, anche tante polemiche. Sì, non ci sono stati i trentelli, non c'è mai stato un dominio effettivamente come magari c'era negli anni passati, e questo faceva pensare che in effetti ci potesse essere un riavvicinamento. Ma sai, qui torniamo al discorso che Siena quest'anno comunque pare essere un po' meno schiacciasassi di quanto non fosse negli anni precedenti, al di là delle sconfitte subite in campionato, però comunque la vedi che ha dei momenti di passaggio a vuoto che in passato non aveva nel modo più assoluto, per cui c'è da presumere la possibilità che ci sia magari una serie finale che possa essere con Milano, con Cantù, con Venezia, con Sassari, con chiunque ci arrivi a giocarsi questa finale, magari un po' meno squilibrata di quanto non sia stata negli anni passati. Sì, ci sono. Cantù come la vedi invece? Ma Cantù è in un momento di difficoltà, ha giocatori chiave che non stanno benissimo. Infatti credo che, come dicevi tu, stia pagando l'Eurolega, perché comunque una squadra che per la prima volta ha vissuto questa esperienza, quindi per la prima volta non ha potuto allenarsi un'intera settimana preparandosi ad una singola partita, ma si è trovata tra viaggi e cose a prepararsi meno, ad essere meno dettagliata nella preparazione, e credo che questo oltretutto per un allenatore come Trincheri sia stato pesante. Certo. Nel momento in cui finisce l'Eurolega saltano fuori le magagne fisiche e quindi comunque non riesce a lavorare in palestra come vorresti, quindi credo che dall'inizio dell'anno non ci sia mai stata la vera Cantù, quella che si vedeva l'anno scorso, dove tutto funzionava spesso come un orologio, no? Sì. Si vedevano delle robe che sembravano finte. C'è il tempo per rimetterle insieme queste cose, però infortuni permettendo, poi penso che sia anche scesa l'adrenalina dell'Eurolega, perché credo che quella fosse benzina anche per il campionato, no? Ti tenevi in piedi, cioè era qualcosa di, grande, forte. Quando tu vivi una serata formidabile come ne hanno vissute i canturini quest'anno, il mercoledì o il giovedì, certo ti rimane addosso questa cosa. Poi, come dici tu, l'adrenalina scende, arriva la stanchezza, i dolori, i problemi. Come uno studente che finisce l'esame, no? Certo. Che è andato comunque benissimo e poi deve rimettersi a studiare per quello dopo e fa un po' di fatica, insomma. Dunque ci fermiamo? Dobbiamo fermarci per la borsa, ma subito dopo torniamo insieme. 800 24 0024 per le vostre telefonate, messaggi 349 238 6666. Beh, c'è Massimiliano da Pesaro, lo teniamo lì? No, sentiamolo. Massimiliano? Dopo? Sì, pronto. Eccolo, eccoci qua. Salve, io volevo chiedere se Venezia o Pesaro potevano essere le sorprese di quest'anno per lo scudetto. Allora, per lo scudetto, poi sentiamo Paolo Ellesse che magari mi contraddice, per lo scudetto no, io vedo due squadre meravigliose che corrono leggerissime, che sono Sassari e Venezia. Vedo Pesaro che è un'avversaria che nei playoff vorrei evitare come la peste. Sì, vabbè, tutte e tre le vorrei evitare come la peste, per la verità. Pesaro, Venezia e Sassari, come giustamente ricordato tu, sono già la sorpresa di questo campionato. Appunto. Perché stiamo parlando di tre squadre che sono seconde in classifica. Per lo scudetto credo che ci voglia ancora un attimo di crescita. No, su una serie lunga, lunga, anche troppo lunga, perché la serie è meglio delle sette, a me non piace. Beh sì, effettivamente diciamo che da un lato fa vincere veramente chi è più forte, sì. Perché al meglio delle sette veramente la più forte vince, però fa anche un po' trascinare le cose. 5 è perfetta. 5 è perfetta, 5 è perfetta anche per la finale. Palla spicchi. Torniamo insieme, sempre con me Paola Ellesse, e tra poco vi svelo un segreto su Paola Ellesse. Oh, però... mamma. Però prima vorrei rispondere a una supplica di alcuni ascoltatori sul torneo NCAA che sta per vivere i giorni clou. Sta per vivere i giorni clou, infatti, perché sabato notte, a partire da mezzanotte, iniziano le Final Four, le semifinali, e naturalmente già sta crescendo l'attesa e già si stanno costruendo mille storie, soprattutto sulla prima delle due, su Kentucky Louisville, perché c'è Rick Pitino da una parte e John Calipari dall'altra. Pitino è stato mentore di Calipari a lungo, anni fa, adesso i due non si possono vedere. Per cui c'è tutta questa storia, ci sono Alessandro Mauli e Francesco Bonfardeci, sì, che faranno la telecronaca in diretta, che stanno preparando un'enciclopedia praticamente sulla loro vicenda per raccontarla. Sugli scazzi tra i due. Sì, sì, sì, perché poi nessuno capisce esattamente quando si è iniziato questo capovolgimento nel loro rapporto, però veramente adesso non si possono più vedere, e da qualche giorno che si stanno rilasciando a distanza dichiarazioni di fuoco. Addirittura Pitino l'altro giorno ha detto: a Louisville ci sono diversi tifosi di Kentucky ed è per questo motivo che ci sono tanti matrimoni che falliscono. Buttata in questo modo. Comunque io non ti nascondo, sarò politically correct, però vorrei vedere personaggi così anche nella nostra pallacanestro. Ma sono d'accordo con te, anzi no, ritengo che uno dei grossissimi problemi della nostra pallacanestro sia proprio questo, cioè l'assenza di personaggi. Abbiamo tanti bravi figlioli, abbiamo tanti bravi tecnici, però diciamo che noi ritorniamo sempre alle grandi polemiche Peterson-Bianchini perché da allora non ne abbiamo avute più. Esatto, è passato qualche annetto, esatto, è passato qualche annetto e di così di anche di enfasi, di coraggio per dire le cose. Mi sembra che le manche sono tutti sotto traccia, hanno tutti molta paura anche della loro ombra. L'altra semifinale è? L'altra semifinale poi è Kansas contro Iowa State a seguire dopo Louisville Kentucky, per cui se volete preparate del bel caffè, sì, forte, che tirate l'alba domenica mattina. And the winner is... ma ne vale la pena. Questa è una bella domanda. Io nel bracket che facciamo noi in redazione per scherzo ho messo Louisville in finale contro Syracuse è uscita, e allora mi tengo Louisville, spero che vinca Louisville. Ti a questo Louisville. Punto sì, alla faccia di Pittino, alla faccia di tutti. Luigi da Siena, salve, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. È una delle poche trasmissioni che parla di basket in Italia. Niente, volevo fare una considerazione su Siena, che un po' vi ho seguito per radio fino ad ora. Sì. Niente, secondo me il problema di Siena è la stanchezza fisica che vedo da tutto l'anno e secondo me dovuta dagli europei. Perché sono rientrati a Siena una settimana prima della stagione, sia Zizis, Lavrinovic, Kaukenas, McCaleb, sì, Carraretto. Luigi, però allora lei però mi deve spiegare perché invece tutti gli altri, dal Cesca al Barcellona, al Pana, all'Olimpiaco stesso, corrono come le lippe. Perché tutti gli altri non hanno questi problemi? Ma secondo me è dovuto anche che Siena, anche se devo dirlo, ormai a fine diciamo fine serie. Sì. Dipende molto anche dall'età dei giocatori. Tolto il McCaleb, sono giocatori che hanno dai 30 ai 35 anni e poi si sta pagando per questo purtroppo di playoff di Eurolega l'assenza di un Lavrinovic in forma, perché Lavrinovic è... Io ho visto la partita mercoledì scorso, sembrava camminasse sopra le uova. E io ricordo un Lavrinovic in queste condizioni anche alle Final Four dell'anno passato, e lo ricordo in queste condizioni anche l'anno prima. Però rimane la domanda, no? Di Siena ti accorgi di quest'usura, di questa consunzione, di questa stanchezza, di questi problemi, di tante impossibilità? Negli altri meno, Paola? Sì, è vero, effettivamente c'è una differenza. Devo dire, la notazione del tuo ascoltatore sull'età è senz'altro valida, nel senso che chiaramente col passare degli anni il recupero diventa è sempre più difficile, sempre più lungo. Senz'altro gli europei condizionano chiunque vi partecipi, infatti normalmente sono tutti a pezzi all'inizio di ogni singola stagione. Diciamo che però in teoria a fine marzo la stanchezza di un europeo dovrebbe essere smaltita. Sì. Allora, adesso rivelo un segreto su di te. Eccola. Speravo ti fossi dimenticato. No, so che tieni un diario di viaggio, un quadernetto su cui appunti luoghi belli, ristoranti che ne valgono la pena. Chi è che ti ha detto questa cosa? Non ti preoccupare. Vero o no? È vero, è assolutamente vero. No, assolutamente vero, perché è una cosa che mi piace, visto che la vita di chi fa il nostro mestiere è particolarmente ricca di incontri, di posti, di persone, di momenti, mi piace fissarli perché poi me li vado a ricercare, a rivedere, li rivivo in qualche maniera. Su questo preziosissimo quadernetto. E allora, senti questa, abbiamo Gianmaria Vacirca che come al solito ci presenta una partita, che in questo caso è Varese-Sassari, ma partendo dalle cucine, Basket Chef. Basket Chef. Non ci sono discussioni, Varese-Sassari è la nostra partita del weekend. Milo Sacchetti, uno che se la gioca con Andrea Mazzoni per il titolo di Coach of the Year, torna a casa per la sfida contro la sua squadra e i suoi compagni di sempre. Cecco Vescovi e Max Ferraiuolo, i capi del front office varesino. Max beve birra, Cecco e Meo bevono vino rosso. Un bel mix come la gara del resto, una rumba a viso aperto, senza tattiche, con tanta corsa e giocatori su ambi fronti che non ti danno punti di riferimento, in tutti i ruoli. Per Ferraiuolo, Meo dovrebbe anche cucinare, perché l'ex play tascabile ai fornelli preferisce lasciare ad altri. Poi però è uno che mangia, torte salate e salumi, spaghetti alla carbonara, una bella milanese e orecchie di elefante e una fetta di torta al cioccolato con la panna, quella che gli fa la moglie per festeggiare una vittoria o consolarlo dopo una sconfitta. Per Cesco Vescovi, Meo deve cambiare menù, gnocco fritto e prosciutto di Parma, poi pasta col sugo di cinghiale, fiorentino al sangue e tiramisù, il tutto innaffiato da vino rosso della Valtellina. Niente male, non c'è che dire, neanche qui, per uno smilzo come il presidente biancorosso. Per il mio nazionale, che avrei già lasciato ginocchia e famiglia, amici e parenti, affetti e ricordi, bisogna che cucini io, anche perché è il mio compleanno e lui è il primo invitato insieme ai suoi fedelissimi Vincenzo Ugo Ducarello e Paolo Gabriele Citarini. Il baffo ci chiede gamberi per l'antipasto in salsa rosa, due spaghettini ricci come primo piatto e un pesce al sale per il secondo. Sul dolce ampia scelta e molta indecisione, ma alla fine ci ha chiesto un Monte Bianco. Per la carta dei vini, imbarazzo della scelta e molta, molta, molta varietà. Brutto Orbato per iniziare, Vermentino di Argiolas per continuare e finire. Poi Mirto per tutti e che vinca il migliore. E allora mamma, butta la pasta! Facciamo gli auguri a Gianmaria Vacirca. Sì, infatti, buon compleanno già, ma una fame tremenda, devo dire. Tra l'altro il menù scelto da Meo molto marittimo, ormai sì, lui è ormai un lui sardo. Ormai lui è un sardo. Anzi, isolano, perché comunque anche in Sicilia non è stato male. Esatto. È quindi, un isolano. Ma ha messo su qualche chilo, secondo te? Ma non lo so, non io l'ho sempre visto anch'io bello, visto sì, solido, diciamo così, però ma mi fa impazzire perché lo vedo sempre anche bello, tranquillo, sereno, sì. È proprio l'epitome di quello che fa una roba che gli piace e non lo nasconde, gli riesce molto bene, se la gode ed è veramente un manifesto alla cara gioia. Paola ha trovato la strada giusta. Sardegna, basket, mare, mamma mia. Brutto? Perché non hai qualche contatto con me? Non ha bisogno di due assistenti, porta borraccia. No, perché già ci sono Ugo e Paolo. Quelli con lo spazzolone, ecco, per il campo. Sì. Forse potremmo andare a spazzare. Meo, se ci ascolti, io e Paolo e Elisse arriviamo subito. Cristian, Verona, buonasera. Sì, buonasera dottor Genta, complimenti per la trasmissione. Grazie. Chiamo da Verona, come ha appena detto lei. Sì. E mi riallaccio solo al discorso di Siena, perché ho visto gara 3 e sono rimasto molto molto deluso. E, sentendo anche gli spettatori che chiamano, appunto quelli anche di Siena, io dico, secondo il mio modesto parere, che non ci sono scusanti. È finito un ciclo e probabilmente sono state fatte delle scelte sbagliate da tutta la società. Quello che più rammarica è che Siena rappresenta il movimento italiano in questo momento in Europa, e se andiamo a Pireo a fare quel genere di figure lì, adesso io stasera ovviamente spero magari in un 2-2, i pronostici sono molto bassi per vedere una vittoria di Siena, essendo anche obiettivi, cioè l'energia non ce n'era in campo. Quello che mi rammarica, appunto, dico, il movimento italiano che segue a sua volta il modello Siena, perché Pianigiani, perché Carraretto in nazionale, compagnia, però dico, ci sono dei giocatori che Siena non fa giocare. Uno vede Aradori, vede anche lo scarso minutaggio degli italiani stessi come Res, cioè seguendo la telecronaca di Dan Peterson, uno dice Lavrinovic non sta in piedi, non può difendere perché non si può abbassare, e la domanda è come mai gioca. Ecco. No, questo è pertinente. Io sono sempre dell'idea che Siena non rappresenti il movimento italiano, ma rappresenti se stessa e la sua bravura. È chiaro che è la portabandiera del basket italiano in Europa, però continuo a pensarla così. Palla spicchi. Torniamo con Paolo di Segui con me, con Flavio Tranquillo che ci ha raggiunto al telefono. Ciao Flavio. No. Ciao, c'è anche Raffaele da Venezia che era in linea, parliamo pure con lui. Raffaele, buongiorno, dica. Sì, ciao, allora tanti saluti a te, saluto anche Paolo Tranquillo di cui sono un fervente ammiratore. Approfitto. E niente, volevo, sì, io abito diciamo nei pressi di Venezia, sono sempre da anni tifoso della Rey, ancora ai tempi di Carraro, Gorghetto sì. E passa. E niente, sarà per orgoglio personale così, ma adesso qui in zona c'è molto fermento riguardo, molto entusiasmo riguardo questa squadra. E niente, volevo un vostro parere, anche se a grandi linee qualcosa avete espresso anche oggi. Sì. E soprattutto riguardo un giocatore, Clark, che secondo me potrebbe trovare posto anche su squadre molto, molto più ambiziose, anche se non ha un gran pedigree perché proviene da un campionato insomma minori. Sì. È un vostro parere. E un'altra piccola cosa, un omaggio se posso. Due domeniche fa a Treviso, cioè dove gioca la Reyer, era presente un certo Drazen Dalipagic. Sì. E niente, ha avuto un tributo enorme dal pubblico, anche da chi non conosceva. Ci mancherebbe altro, perché insomma ecco, un po' di rispetto cosa, per la storia ci vuole, no? Esatto, un po' di memoria storica. Tra i vari palmarès di questo giocatore volevo indicare solo una cosa: da quando è stato istituito il tiro da tre, lui era penso a fine carriera credo, e lui in carriera comunque ha il 47% da tre in carriera, non in stagione particolare. Sì. E vale a dire che ogni tiro era un punto e mezzo. sì certo, la ecco, statistica è quella giusta, ma d'altra parte insomma un po' di memoria storica ci vuole, visto che fervente ammiratore di Flavio Tranquillo le faccio rispondere da lui. Ma su Dalipagic non c'è molto da dire se non levarsi il cappello e rimpiangere un pochino a livello di curiosità personale che la situazione politico-sociale e generale dell'epoca di Dalipagic fosse tale per cui i giocatori dell'allora Jugoslavia difficilissimamente andavano a finire a giocare nell'NBA, non perché sarebbe cambiato Dalipagic, ma perché secondo me sarebbe cambiata l'NBA, perché per come si giocava allora Dalipagic avrebbe avuto un impatto tramortente sulla Lega americana. L'altra domanda riguardava Albin Young, giusto? Sì, no, riguardava Clark. Clark, ma io penso che in generale la forza della Reyer sia quella di avere una grossa coerenza interna. Clark non è alla prima esperienza europea, Albin Young non è la prima esperienza europea, Tamar Flay non è la prima esperienza europea, eppure sono tutti giocatori che hanno in comune, oltre all'esperienza, anche secondo me il non appagamento, perché nessuno nella carriera europea ha avuto ancora fino a quest'anno probabilmente la stagione con la S maiuscola, quella che ti fa svoltare. Sì. Nel caso anche a livello contrattuale si sono trovati con un gruppo molto profondo, con responsabilità molto ben distribuite, hanno dei giocatori colpevolmente sottovalutati, uno per tutti a Rosselli, e in questo equilibrio loro hanno sicuramente qualcosa in più di tanti altri. Io Paolo ne parliamo da tutta la trasmissione, la tua sensazione su Siena? La mia opinione su Siena è te la do dopo la partita di oggi e dopo la fine della serie. Io non sono assolutamente convinto che questa serie sia finita, anche se non si può ignorare che gara 3 sia stata una gara non persa ma strapersa, e in maniera abbastanza inusuale per le caratteristiche di Siena. Vedere la squadra sulle ginocchia, e non possono essere ginocchia solo fisiche, dopo 12 o 14 o 16 minuti di partita non è quello che siamo abituati a veder fare, però vai a capire se è una serata, se è una situazione passeggera o se è invece qualche cosa di più ampio. Questo ce lo può dire solo il tempo. Detto questo, sarei l'ultimo a essere stupito se Siena vincesse stasera. Sentiamo domenica, Flavio. Grazie. Un abbraccio. Ciao, grazie Flavio Tranquillo. Con Paolo Ellisse volevo invece, siamo quasi in chiusura, fare due parole di NBA. Grande settimana di Berinelli questa. Anche stanotte sì. 27 punti, ha perso però eguagliato record in carriera, una sconfitta con Portland, ne ha segnati 22 contro Golden State, sta giocando una grande pallacanestro e siamo tutti molto contenti. Sì, ha avuto un momento di appannamento qualche settimana fa, adesso si sta riprendendo, sta crescendo di nuovo. C'è da dire che gioca in una squadra che quest'anno sta andando male, perché oggettivamente va male, certo non c'è più Chris Paul e questo senz'altro cambia qualcosina, aumenta anche i possessi del Beli, chiaramente, perché comunque però è una squadra che sta andando decisamente maluccio e che deve comunque crescere un po', ricostruirsi. Però sì, è vero, sta crescendo, sta giocando, è convinto, molto convinto, si sente sempre più un giocatore NBA e sicuramente la convinzione non può che aiutarlo, e quindi c'è, diciamo. Nella notte, Paola, anche una sfida che rivedremo nei playoff: Los Angeles Lakers, Oklahoma. Sì. Vince Oklahoma sul campo di LA. Westbrook e Durant non fanno prigionieri. Westbrook ha fatto una partita pazzesca, assolutamente. Poi lo voglio vedere pazzesca nei playoff, perché l'anno scorso mi ha deluso molto. Il punto è quello che chiaramente sono giovani, hanno meno esperienza, sono meno scafati di quanto non siano i Lakers, però hanno da Fish, si sono presi Fisher. E quindi quello senz'altro qualcosina magari sui playoff può insegnare, visto che di esperienza ma appena appena un pelino ne porta ha. Porta a scuola i ragazzi? È probabile, sì, potrebbe portarli a scuola. C'è da dire che sono bellissimi da vedere i Thunder, perché sono veramente belli, e oltretutto all'interno di una stagione nevrotica, pazza e furiosa, sono quelli più continui, perché sono andati in testa all'inizio ad ovest e sono sempre lì, sempre con le mani sul manubrio. Allora, le finali NCAA nel sabato e poi lunedì la finalissima. Visto che siamo in tema di giovani, io chiudo ricordandovi invece un appuntamento importante, mi fa molto piacere segnalarlo: la settimana prossima a Casale Monferrato, 9 più Cup, le 14 migliori squadre under 14 le migliori squadre under 14 del movimento italiano. Non è NCAA, ma mi sembra un appuntamento discretamente importante e da seguire. Grazie a Paolo Elissa, alla prossima. Grazie a te, Carlo, ciao a tutti. Grazie anche a Viola Bottoni per il lavoro in redazione insieme a Franco Piantanida e a Nicolò Rinaldi in regia. Con lo sport torniamo domani pomeriggio alle 5. Buona giornata.